Siamo qua alla manifestazione in solidarietà contro l'intervento statunitense, contro le bombe statunitensi e contro le bombe di Bashar al-Assad a Santi Apostoli a Roma il 29 di agosto. E finita la manifestazione volevamo intervistare un compagno siriano, che, Ahmed, che ci dà una sua visione di ciò che sta accadendo ora in Siria con l'annunciato intervento di Obama. Marhaba, Ahmed. Ciao, allora noi come faccio parte del coordinamento nazionale siriano per il cambiamento democratico che è fondato ad aprile a Damasco dopo un mese della rivoluzione siriana, rinunciamo a quelle minacce di attaccare la Siria perché comunque non serve di salvare niente o risolvere la situazione drammatica in Siria. Spingiamo, chiediamo sempre delle forze internazionali e interregionali di fare pressione su tutte le parti, di fermare la guerra, fermare arrivare le armi a tutte le parti. Per il momento non diciamo di buttare le armi, però formare, ammazzare, la guerra e andare a lavorare su un piano politico. Dialogare per arrivare a mettere il paese sulla strada iniziale della democrazia e poi piano piano si risolvono queste armi che per il momento, se hanno l'opposizione paura di tornare la violenza del regime, ancora ce l'hanno. Se non funziona questa soluzione politica, che crediamo dobbiamo impegnarci bene, molto su questo livello, perché non ho fatto niente sul livello politico, e non lasciare la gente a ragionare della soluzione armate sempre, così si distrugge il paese e si distrugge la generazione tutta. Qualche persona di sinistra o di presunta sinistra dice che le bombe che dovrebbe lanciare Obama e gli inglesi contro la Siria sono la prova che la rivoluzione siriana è un complotto esclusivamente occidentale, e che queste bombe puntano appunto ad abbattere il governo. Secondo te, è verosimile che questo intervento di 3 giorni, come lo hanno annunciato, sia determinante per abbattere Bashar al-Assad? E soprattutto, è vera questa faccenda, secondo te, di un complotto esclusivamente estero, tra cui anche le prime manifestazioni pacifiche che ci sono state? No, okay. Le prime manifestazioni, le prime proteste erano legittime, senza armi e senza niente da parte del popolo siriano. E comunque dopo sicuramente si giocano le mani, però la grande responsabilità è al regime che non riesce a sostenere la situazione. Anzi, ha fatto dall'inizio, ha arrestato tutti quelli capi o guidati che guidano le manifestazioni, che sono democratici, sanno bene le linee e la strada della democrazia e hanno lasciato nella strada, pure hanno liberato dalle prigioni gli estremisti e alcuni pure criminali addirittura. Perciò, dire che stanno in piazza solo criminali e fondamentalisti e a prendere la legittimità di finire il movimento popolare in Siria. Dopo è cominciato ovviamente a giocare tutte le forze all'esterno, però questa è sempre la responsabilità. Se il regime veramente vuole un cambiamento radicale a portare il paese alla democrazia, poteva fare dal primo giorno o prima di 10 anni, anziché di quando è cominciata la rivoluzione. La situazione non è creata al 2011, è la situazione da 40 anni, è così. Sì, mi ricordo che qualche anno fa Bashar al-Assad aveva aperto un dialogo con le opposizioni e li aveva subito arrestati tutti. 2000 c'era stato un periodo di apertura, si chiama la primavera di Damasco. hanno aperto pochi mesi, hanno visto chi sta attivo in campo, in politica, hanno saputo tutto, hanno scoperto, l'hanno arrestati tutti. E purtroppo questi, in questa maniera, sicuramente porta il paese a questa situazione attuale, quella maniera di trattare il Stato o il popolo. Sempre la propaganda cosiddetta di sinistra parla di rivoluzionari che sono esclusivamente appunto integralisti islamici, appartenenti ai vari stati islamico dell'Iraq e del Levante o del fronte al Nusra, ma abbiamo letto qualche giorno fa che era stato rilasciato un compagno comunista, un disegnatore comunista dalle prigioni di Assad, che era stato arrestato insieme a altri tre compagni e che faceva parte appunto del Comitato per il Cambiamento Democratico. Ci puoi raccontare che cos'è questo cambiamento, questo comitato? Coordinamento. Questo coordinamento per il cambiamento democratico, da chi è composto anche? Sì, questo coordinamento è fondato, come avevo detto, aprile 2011 a Damasco, dei storici oppositori del regime che hanno passato anni nei prigioni dell'ex presidente e attuale presidente anche. Ha adattato dell'inizio della rivoluzione dei tre no come una strada per cambiare il regime e la sistema governativa a un sistema democratico. Questi tre no che sono stati lanciati dall'inizio della rivoluzione sono no al settarismo, no alla violenza, no all'intervento esterno. E crede che in questa maniera solo può fare un cambiamento radicale nello Stato. E non solo quello Abdalki, che è stato liberato pochi giorni fa, ci sono altri capi del coordinamento ancora in prigione da un anno, che sono prima di anni, hanno passato dei 13 anni in prigione, che è uno famoso, Abdelaziz al-Khair, che da un anno sta in prigione, detenuto nei prigioni del regime, ancora non si sa niente. E per questo, per avere un cambiamento radicale, ha lanciato questi tre no è l'unico, non diciamo, però le poche, diciamo, organizzazioni che hanno messo una programma chiara, scritta, politica, di fare quel cambiamento, o loro, diciamo, opinione o punto di vista per come si fa questo cambiamento. E un'ultima domanda, no, abbiamo visto che è stata liberata Raqqa dalle truppe governative e abbiamo visto le manifestazioni degli abitanti del posto che andavano sotto le prigioni di Jabhat al-Nusra con le bandiere della Siria libera, chiedendo appunto la liberazione dei prigionieri e prosegue anche della rivoluzione senza di loro. Tu da siriano, come pensi che alla situazione attuale, come pensi che potrebbe terminare questa rivoluzione? Cioè, come stanno la situazione sul campo secondo te? È molto difficile, cioè molto difficile di capire come finirà, è molto difficile la situazione anche nel campo, cioè tanti abitanti del posto dove si trovano questi fondamentalisti hanno protestato, sono venuti incontro perché ovviamente non sono abituati a questa maniera di estremista, di come pensano questi estremisti che sono venuti, ci sono alcuni membri pure tanti dal fuori della Siria, non sono siriani. Per questo credo, non ho paura, diciamo, sulla vivace del popolo siriano, che ancora c'è nella sua medista, cioè sta molto moderato e non è non adatta la violenza comunque. E purtroppo questa gente che sta senza armi, il popolo sta in mezzo fra queste armi che vengono dall'altra parte, da una parte all'altra. Speriamo che quello che si fa dovrebbe essere muovere un'operazione politica. Oltre una cosa politica non si risolve niente, continua il disastro con scontri armati e non si cambia niente. La soluzione è politica e punto. Ci potresti suggerire qualche sito di informazione? Allora è un po' difficile l'informazione, mi dice. C'è nel sito del coordinamento c'è alcuni articoli, però pochi. C'è il coordinamento nazionale siriano del cambiamento democratico e c'è il sito Siria-Libano di Trombetta. A volte leggo, cioè, delle, diciamo, articoli un po' obiettivi pure. Grazie mille, Shukran. Grazie a voi.